Un salutone a tutti e tutti, riparte Passaggio a Nord-Ovest dopo la pausa estiva, una pausa è durata anche fino a settembre, e riparto la 17ª puntata. Parliamo in questo caso di l'obiezione, l'opposizione alla costruzione del tunnel TAV nell'area fiorentina e in particolare chiaramente nell'area nord-ovest di Firenze. Vi ricordiamo il Passaggio a Nord-Ovest, una rubrica di Radio Wombat che vuole e che tratta dei fatti accaduti nel quadrante del nord-ovest della città e i fatti che accadono raccontati senza filtri, senza mediazione, raccontati da chi in questi quartieri, nelle periferie nord-ovest della città ci vive e ci lavora, senza sponsor politici, senza interventi istituzionali o comunque diciamo che parla la gente che vive i problemi della città. Ricordatevi che state ascoltando Radio Wombat, presumibilmente dal sito, anzi sicuramente dal sito in streaming, il sito è wombat.noblogs.org, l'account Twitter è twitter.com chiaramente / Radio Wombat FI. Per la mail potete utilizzare postawombat@siberia.net oppure anche sscastelloinventati.org. Sono le due caselle posta elettronica a cui potete mandare suggerimenti, richieste di trasmissioni, eventuali tematiche che vorreste fossero trattate in questa rubrica che parla appunto di quello che accade, a Firenze. E come precedentemente detto, oggi mandiamo in onda una trasmissione registrata circa registrata circa una settimana fa alla terza festa di Rifredi, a cui si sono dati appuntamento una festa organizzata da comitato di cittadini che si è battuto contro il taglio degli alberi in Viale Corsica e di cui appunto abbiamo parlato nella 16ª puntata, la precedente puntata di Passaggio Nord-Ovest di metà agosto, e appunto questi cittadini insieme all'occupazione Corsi 81 e ad altri comitati dell'area fiorentina hanno organizzato questa festa in cui oltre ai concerti, cena popolare e via dicendo è stata anche un'assemblea di cui magari vi parleremo nelle prossime puntate di Passaggio Nord-Ovest, e successivamente a questa assemblea abbiamo intervistato un rappresentante del No Tunnel TAV, cioè la situazione dell'organizzazione base si batte contro la costruzione sotto attraversamento TAV nella metropoli fiorentina. È un'intervista abbastanza lunga per cui la dividiamo in due parti, magari ci mettiamo anche, come richiesto dallo stesso intervistato, un intermezzo musicale. E quindi ecco l'intervista, ricordiamo che Passaggio a Nord-Ovest potete scaricare, risentirlo in replica giorni successivi a quelli della diretta, cioè nei prossimi giorni fino alla domenica prossima, con un leggero cambiamento di orario rispetto a quelli che erano gli orari delle repliche pre-estate, e cioè a giorni alterni alle 13 il martedì, giovedì e sabato, mentre invece alle 14, cioè alla stessa ora della diretta, il mercoledì, venerdì e la domenica, cioè giorni pari, giorni dispersi. Potete inoltre scaricare il podcast di questa puntata, ma di tutte le altre puntate di Passaggio a Nord-Ovest, così come di tutte le puntate, di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, andando alla sezione podcast sul sito, ripetiamo, è wombat.noblogs.org, e appunto scaricare in ordine alfabetico sono elencate le trasmissioni Passaggio a Nord-Ovest, e tra le ultime potete cliccarci sopra e scaricare questa puntata così come le precedenti. Ed ecco l'intervista. Ricordiamo appunto che è una intervista registrata ai margini di una festa, per cui inevitabilmente ci sono un po' di problemi di rumore. E quindi siamo qui alla terza festa di Rifredi organizzata dai cittadini di Viale Corsica, e che comprendeva anche dalle 16.30 un'assemblea a cui hanno partecipato svariati comitati cittadini, fra cui anche il comitato contro il sottotraversamento del tunnel TAV. E quindi siamo qui con Tiziano e ne approfittiamo per chiedergli subito il parere, diciamo, le motivazioni che loro danno rispetto a una delle ultime vicende riguarda la TAV, e cioè la messa sotto inchiesta di alcuni funzionari ASL per troppo zelo sotto certi aspetti. Ecco. Sì, la nostra impressione è proprio quella, anche perché ci siamo confrontati subito quando abbiamo appreso, diciamo, dei provvedimenti nei confronti di questi sei funzionari dell'ASL, ci siamo subito confrontati con Medicina Democratica per capire che cosa stava succedendo. E loro, che sono più dentro la questione, ci hanno detto subito: qui si cerca di normalizzare, chiunque può fare controlli. Cioè, la nostra impressione a questo punto è che si stia cercando, anche con pesanti minacce nei loro confronti, di normalizzare tutto come è stato fatto con l'ARPAT. L'ARPAT praticamente è stata così depotenziata che non è in condizioni di fare più quasi nessun controllo. E se questa catena di controlli viene eliminata anche sul discorso della salute, è molto brutto, anche perché l'ASL interveniva soprattutto sulla tutela della salute dei lavoratori, il che non è assolutamente il caso. E ci scoccia un po' una cosa, c'è una cosa che ci fa impressione, si punta il dito contro degli impiegati che si presumono un po' vagabondi, ma dietro c'è in realtà una cosa molto più grave. Cioè, ci sono delle campagne stampa a giro, si vedono molto bene, in cui c'è l'impiegato fannullone, il furbetto del cartellino. Ma dietro queste singole figure, possono anche esistere figure che non esistono, e si nasconde qualcosa di molto più grave, a parte un attacco al mondo del lavoro pubblico, ma in questo caso proprio è un attacco alla possibilità che qualcuno faccia il suo lavoro, ed è un attacco ai lavoratori, perché se vengono meno i controlli sulla salute dei lavoratori, insomma, la cosa si fa particolarmente grave. E nello specifico come si è configurata questa vicenda? Da quanto capisco, diciamo, con una lettura superficiale di quello che è stato scritto, insomma, che mi è stato detto, allora loro facevano controlli e rispetto alla salute dei lavoratori, appunto, mi ha detto precedentemente, lavoravo sul cantiere, e anche rispetto alle problematiche create dall'opera in sé. Sì. Ora, sì, sicuramente. Infatti, questa è la cosa grossa, perché viene a mancare questo controllo. Ora, le motivazioni, diciamo, di questi provvedimenti della magistratura non so quanto sono validi o meno, quanto corrispondono a cose concrete, questo non lo so, lo si stabilirà, ci vorranno anni per stabilirlo. La faccenda, ecco, da quello che mi ha detto Medicina Democratica, praticamente togliendo di mezzo sei funzionari è stata azzerata la struttura dell'ASL e fa i controlli. Cioè, l'ASL a Firenze non ha più nessuno per fare controlli, è completamente azzerata, il che ci sembra molto grave. Poi ma ci sono anche degli antefatti, se ci ripensiamo bene. Qualche mese fa un medico di Medicina Democratica, tanto la taglio, sì, cioè. Sì, anche se penso non entri nemmeno, vai dentro il microfono, perché è direzionale. Basta lì, vai, ti sa. Allora, qualche mese fa un medico di Medicina Democratica, che fra l'altro era già in pensione, fu oggetto di attenzioni molto pesanti da parte dei carabinieri, gli furono sequestrati documenti a casa, gli fu sequestrato il computer. E tutti ci domandavamo che senso avesse questa cosa, perché è una persona di una limpidezza cristallina. Infatti è venuto fuori nulla, è venuto fuori nulla, ma probabilmente questa è un'inchiesta che viene molto da lontano e che sta cercando di colpire proprio le persone che si occupano di controlli. Questo medico si chiama Gianluca Garetti ed è molto attivo, per esempio, nel denunciare tutti i problemi legati agli inceneritori. Ritornando allo specifico TAV, passaggio a nord-ovest, sostanzialmente cerca di focalizzare l'attenzione su quello che accade in particolare nel quadrante nord-ovest della città, quindi Novoli, Rifredi, insomma la Piana e via dicendo. Ecco, a questo punto di vista la vicenda TAV specifica come si sta evolvendo nel tratto, diciamo, e va dal centro fino al sodo, al castello, ecco. Allora, adesso non si sta evolvendo, si sta avvitando su se stessa in una maniera che direi ridicola. Per quanto riguarda i lavori fatti, diciamo, a Castello è stato ormai ultimato lo scavalco, che ha creato problemi con la falda, problemi non risolti, ignorati ma non risolti. In altre parti i lavori sono sostanzialmente sospesi al momento. Nella stazione dove si dovrebbe venire la stazione lì, cioè Macelli, attualmente i cantieri sono rallentatissimi, praticamente fermi. Ma mi preme ricordare una cosa successa qualche mese fa. Circa un anno fa il sindaco Nardella annunciò che non si voleva più fare questo progetto perché era inutile, pericoloso e costoso, esattamente quello che noi diciamo da 11 anni. Ecco, una cosa che la gente non sa, ma che bene sappia, da quel momento in cui fu fatta questa dichiarazione, i lavori nella stazione ai Macelli, che andavano avanti in maniera rallentatissima, accelerarono in una maniera furibonda. Da 15-20 operai che c'erano nei cantieri diventarono 200-300 ed è stata completata completamente il solaio del primo piano. Ecco, vorrei far notare questo paradosso: si dice di non far più un'opera, i lavori accelerano in maniera vertiginosa e nessuno interviene per dire fermi, perché ora ci si deve ripensare. Cioè, Condotte SPA, cioè Caltagirone, ha fatturato non sappiamo quante decine di milioni di euro soltanto per fare questo lavoro, quando si diceva che si sarebbero bloccati i cantieri. Dopo questo annunciato blocco dei cantieri è insorta, diciamo, l'ala sinistra del Partito Democratico toscano, ammesso si possa parlare dalla sinistra. Comunque praticamente furono due personaggi, è bene ricordarlo, Eugenio Giani e Enrico Rossi, il presidente del Consiglio regionale e il presidente della regione, che fecero le barricate. Non è possibile, Firenze non può stare senza sottattraversamento. Non si capisce con quale logica hanno preteso, hanno fatto tanta buriana che alla fine ha detto allora va bene, troviamo una mediazione. La mediazione a me riesce difficile spiegarla anche agli ascoltatori, perché è una mediazione che non ha senso. Allora si è deciso, le ferrovie hanno deciso che alla stazione Foster, quella ai Macelli, non ci andranno praticamente quasi più treni, pochissimi treni. Loro dicono 2000 persone, ma saranno probabilmente meno, c'è una stazioncina di campagna. Allora, per giustificare l'esistenza di un'infrastruttura gigantesca come quella, si sono inventati di trasferirci le fermate degli autobus. Allora, e riescono a parlare in una maniera assurda di hub, cioè di collegamento fra treni e autobus, quando i treni non ci sono. Che cosa si può collegare quando non ci sono i treni? Non si capisce. Comunque questa sarebbe la soluzione che si sono inventati: trasformare una stazione ferroviaria in una fermata di autobus, e per fare una fermata di autobus si costruisce una stazione che va a 25 metri sottoterra, si costruiscono 7 chilometri di doppio tunnel, quindi un tunnel, 14 chilometri di tunnel, con una spesa che non si sa dove va a finire. Finora si dichiaravano loro, non io, dichiaravano loro 1,7 miliardi, le ultime voci parlano di 2,5 miliardi. Allora. Faccio un attimo, hai parlato di una cifra di viaggiatori che utilizzerebbero la Foster, che loro non l'hanno mai detto quanti viaggiatori la dovrebbero utilizzare. A me mi sembra tu abbia detto una cifra veramente bassa. E in che arco di tempo verrebbe utilizzata questo, ci puoi dire il numero? Sì, no, hai ragione, sono stato frettoloso. Si parla di 2000 viaggiatori al giorno, cioè molto meno che di quelli di Pontassieve. Cioè a Pontassieve si prevedono 3600 viaggiatori al giorno all'incirca. Cioè una stazione di quelle dimensioni, cioè una stazione, non so se vi rendete conto il costo quanto sarebbe, quello stimato e quello stimate voi? Allora, di tutto l'ambaradan, loro dicevano 1.700.000.000. Le ultime loro dichiarazioni, l'ho viste su un giornale 2 o 3 giorni fa, poi non so quanto, perché sono chiacchiere, parlano di 2.5 miliardi. 2.5 miliardi. Noi non lo sappiamo dove si va a finire. Vi posso dare i numeri precisi che delle cose che sappiamo. Allora, i lavori alla stazione, no, i lavori di sotto attraversamento, quindi alla stazione Foster e diciamo agli imbocchi delle gallerie, insomma, i lavori fatti hanno un valore di circa 250 milioni a oggi. 250 milioni. A fronte di questi 250 milioni è sicuro che c'è un ulteriore aumento di 350 milioni di euro. Quindi i costi sono più che raddoppiati solo per questo lavoro qua, solo per questi lavori. Ma se si va avanti, chissà quanti costi avanti. Andiamo ora un brano musicale e ci risentiamo fra 5 minuti. By giving you no time instead of it all, until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You can jump to religion and sex and TV. You think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Telling you still, but first you must learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero. to be a hero, well, just follow me. Ed era Working Class Hero, la versione, la cover, coverizzata, questa sera dai Green Day, e ricordiamo che stiamo sempre ascoltando Passaggio al Nord-Ovest su Radio Wombat, sito wombat.blogs.org, e rimandiamo la seconda parte, sempre la stessa intervista, a un rappresentante del comitato No Tunnel TAV. Da un fatto di cronaca, a me mi sembra, perché quando si parla di TAV sono sempre delle cose che con una mente un po' razionale, diciamo, stupiscono, ecco. La protesta dei viaggiatori dei treni regionali, perché è uscito fuori che viene dato la precedenza, dovrebbe dare la precedenza ai treni più veloci. Certo. Sì, allora, ero un ferroviere, sì, che questo campo è naturale, diciamo, che ci sia una gerarchia dei treni, c'è sempre strada, e che quando ci sono da fare ritardi, insomma, si cerca sempre di fare una proporzione di contenere i ritardi più possibile. Quello che è venuto fuori ultimamente è un documento ufficiale di cui sono venuti in possesso i comitati dei pendolari, dove si dice chiaramente che i treni a alta velocità devono avere la precedenza assoluta su tutti gli altri treni, cioè praticamente su treni dei pendolari, dei treni regionali, perché i ritardi dei treni a alta velocità devono rimanere in un massimo di 5 minuti. Questo è che comporta che diciamo, questo rapporto di ritardi reciproci che si possono dare ai treni verrà tutto sbilanciato a favore dei treni dell'alta velocità. Questo comporterà che per far passare 3-4 treni ad alta velocità un treno dei pendolari prenderà 20-30 minuti di ritardo come nulla, e questo capite che è un problema, perché un pendolare tutti i giorni affronta un viaggio per andare a lavorare e tornare a casa. Allora, uno se va a fare un viaggio di piacere, va a fare una gita e arriva a mezz'ora di ritardo, insomma, si può scocciare, ma se tutti i giorni regolarmente succedono questi inconvenienti, è un peggioramento della qualità della vita per tantissime persone, e questo è quello che si prevede succeda soprattutto sui pendolari del Valdarno. E ritornando a parlando, diciamo, bisogna parlare del quartiere principe, diciamo, il quartiere della stazione Foster, insomma, la situazione attuale è stato il problema delle terre di scarico, il problema degli inquinanti, che la polvere, diciamo, tutte queste cose normalmente esistono in una qualsiasi lavorazione, e che chiaramente in un'opera, un lavoro così grande come si configura lì a Macelli, è moltiplicato per tantissimo. E com'è la situazione attualmente? Adesso i cantieri sono molto rallentati, però già l'ARPAT qualche tempo fa, nonostante faccia pochissimi controlli, in uno di questi pochi controlli ha trovato che c'erano delle dispersioni di polveri molto forti, in particolare da un silos di cemento. Quindi è intervenuta in qualche maniera sospendendo i lavori, ma erano lavori comunque rallentati. Adesso, appunto, essendo rallentati, diciamo, i problemi sono minori. I lavori attualmente sono sostanzialmente fermi. Io non so che cosa stanno aspettando. I problemi, diciamo, ambientali, quelli sono tutti in piedi. Il problema sulla falda è il più grosso che è accaduto lì a Macelli. Cioè, la falda sarebbero le acque sotterranee. Le acque sotterranee scorrono nel sottosuolo, diciamo, dalle colline verso l'Arno. Ecco, se guardate una cartina di Firenze, vedete i Macelli sono esattamente perpendicolari al flusso della falda. Cioè, per costruire la stazione hanno realizzato delle parasie, cioè delle muraglie larghe dello spessore di 2,5 metri, profondi 40 metri. Queste muraglie, due ne hanno fatte di queste, hanno completamente impattato la falda per la lunghezza di 500 metri. Se si tiene conto che la falda la stazione è lunga 500 metri, le paratie sono profonde 40 metri. 40 metri vuol dire un palazzo di 12 piani, bene, tanto per avere le proporzioni di quello che sono. Se si tiene conto che la falda viaggia a quote fra i 5 e i 15 metri, ecco, si capisce che la falda è completamente impattata. I nostri tecnici gliel'avevano detto prima che cominciassero, ci risposero: non vi preoccupate, perché faremo dei lavori che daranno trasparenza idraulica a tutto, l'acqua da monte andranno a valle e non succederà nulla. Qualche anno fa, tanto l'ARPAT, controllando i pozzi in cui si verifica l'altezza della falda, ha verificato uno sbilanciamento di 1,5 metri nella falda. 1,5 metri è uno sbilanciamento piuttosto grosso, perché questo comporta, cioè, spesso i geologi si impauriscono quando ci sono innalzamenti e abbassamenti di pochi centimetri. Figuriamoci sbilanciamenti di questo livello. Da quel momento, da quando fu fatto quell'analisi, continuerà a dire: la situazione è stazionaria, cioè la falda è sbilanciata e nessuno l'ha rimediata. Hanno realizzato nuovi pozzi per vedere di creare un po' di trasparenza idraulica, ma non funzionano questi, non funzionano assolutamente. I rischi dello sbilanciamento della falda sono due: a monte, dove l'acqua sale e le fondazioni degli edifici si indeboliscono. A valle, dove la falda si abbassa, la cosa è ancora più pericolosa, perché abbassandosi la falda può esserci una diminuzione di volume del terreno. Se c'è una diminuzione di volume in superficie, questa si trasforma in superficie in un cedimento. Se sopra il cedimento ci sono degli appartamenti, questi vengono fortemente lesionati. Questo è successo in un sacco di posti. È successo pochi giorni fa, per esempio, a Torino, un progetto fatto molto meglio di quello fiorentino, un progetto fatto molto meglio in un terreno molto meno problematico di quello fiorentino, si sono avute delle lesioni a interi condomini. Quindi queste cose succedono. Ecco, questa cosa qui a Firenze tutti tacciono, questi rischi esistono e non sono immediati. Ecco, mentre i rischi, diciamo, di cedimento saranno abbastanza, se ci saranno, probabilmente ci saranno, in caso di scavo del tunnel saranno immediati o giù di lì, questi della falda sono molto più infidi, perché possono avvenire anche dopo molti anni. E finiamo qui la prima parte dell'intervista, anzi finiamo la parte dell'intervista di un esponente del comitato Notun nel TAV. Ricordiamo che siete all'ascolto dei passaggi a Nord-Ovest, la trasmissione Radio Wombat, che parla di quello che succede, di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città, in questo caso non solo nel quadrante nord-ovest, ma partendo dal quadrante nord-ovest i problemi attraversano tutta la città. Era un'intervista lunga, come abbiamo detto precedentemente all'inizio della trasmissione, per cui questa è la prima parte. La seconda parte verrà data nella prossima puntata di Passaggio al Nord-Ovest. E quale Passaggio al Nord-Ovest? Vi ricordiamo un po' gli orari, che sono appunto il lunedì la diretta alle ore 14, martedì, giovedì e sabato la replica alle ore 13, mentre invece mercoledì, venerdì e domenica sempre la replica alle ore 14. Le repliche sono si alternano con le repliche di Senza Frontiere, la trasmissione andata in onda precedentemente alle ore 13, e quindi si alternano in questa fascia oraria, diciamo, che va dalle 13 alle 15. E potete anche ascoltare i podcast di Passaggi al Nord-Ovest alla sezione podcast del sito della radio wombat.noblogs.org. Ciao, alla prossima. Dai sobborghi, l'unità è la loro forza, è la strada il loro credo, contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sobborghi, Fiorentini. Fiorentini, sì, ne fa, sono arrivati, dietro un po' di Fiorentini, sì, ne fa, non sono arrivati. sì, dai.